Fenêtre avec ta nouvelle jalousie, toute couverte de broderie d'or. Toi, tu me caches. Nanella, ma belle, laisse-moi la voir. Autrefois, je vais mourir. Funesta custa nova gelosia. Tutta lucente de centrilla d'oro, fenesta custa nova gelosia, tutta lucente de centrilla d'oro, tu manna nella bella mia, lasciami la vedi sino m'amore. Mi sono serlo miserlo, ma sono miser, l'amo miser, ma sono miser, l'amo miser, ya mi gioilo, ya mi fi. Oh, misère, fenêtre custa nova gelosia, tutta lucente de centrella d'oro, fenêtre custa gelosia, tutta lucente de centrella d'oro. Oh, ma sono.